Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Dalle bancarelle di formaggi fino a Marte, questi sono i due temi estremi di questa puntata di Möbius. Benvenuti e ascoltiamo i titoli insieme. Nei mercati all'aperto non è facile conservare la freschezza dei prodotti. Un nuovo sistema di frigoriferi solari può risolvere il problema. Riciclare la madreperla. Si parte dai bottoni e si arriva alle scocche dei computer passando per i rivestimenti dei pavimenti. Un'azienda italiana ricicla ogni anno 13.000 metri quadri di questo materiale. Mi stanco solo a guardarti. Potrebbe essere questo il titolo dell'ultima fatica dei ricercatori di Milano Bicocca, che hanno analizzato la reazione del nostro cervello di fronte a un'immagine che rappresenta movimento. I risultati hanno sorpreso anche loro. Sfida tra robot al Campidoglio. Si è tenuta la terza edizione del Trofeo Internazionale di Robotica. In gara gli umanoidi realizzati dagli studenti europei. Eurussia su Marte. Unione Europea e Russia hanno tecnologie e mezzi complementari per puntare insieme al pianeta rosso. 6 uomini chiusi per 105 giorni nel simulatore della navicella spaziale che nel 2020 sarà lanciata su Marte. Hanno accumulato stress? Un pool di esperti italiani ha studiato il loro stato psicologico. Per capire i risultati della ricerca è importante conoscerne la storia. Se ne parla in un nuovo libro che racconta anche le travagliate vicende familiari di Galileo Galilei, fra madri possessive e sorelle in convento. Ti ho sentito, era una bomba atomica. Come le attuali tecnologie rendono impossibile eseguire in segreto test nucleari. Si è appena conclusa a Milano la campionaria della qualità italiana, un appuntamento annuale dedicato alle cose migliori e sostenibili in termini ambientali che produciamo nel nostro paese in tanti campi molto diversi fra loro. L'appuntamento è organizzato da Simbola, un'associazione che lavora proprio in questa direzione, qualità e sostenibilità. Abbiamo raccolto un po' di casi interessanti e il primo che vi proponiamo riguarda i mercati all'aperto e la conservazione degli alimenti, frutta, verdura, formaggi e via così. C'è un'azienda, la Monetti S.p.A., che opera nel campo della refrigerazione da tempo e questa azienda ha avuto un'idea originale. A Francesca Giacchino, marketing assistant della Monetti, ho chiesto di spiegarcela iniziando da una definizione utile a capire il progetto complessivamente, che è quella di mercato a filiera corta. Sentiamo. Il mercato a filiera corta è un mercato generalmente di produttori locali. All'interno di questi mercati i produttori del territorio presentano e distribuiscono i loro prodotti. Ovviamente il mercato a filiera corta ha il vantaggio di valorizzare le produzioni del territorio, evitando di passare da tutti quegli intermediari che possono essere la grande distribuzione organizzata, tutte le altre forme di distribuzione che qualche volta possono portare ad un incremento un po' eccessivo dei prezzi al consumatore finale dei prodotti tipici. Sarà bene anche ricordare che di questo tipo di mercati se ne parla anche per quanto riguarda le grandi metropoli, cioè la possibilità di avere intorno alle grandi città delle produzioni agricole che riescano in pochi chilometri ad alimentare anche le grandi città. Ecco, allora, qui ci troviamo in questi mercati con un problema di manutenzione delle condizioni delle merci, che sono formaggi, che sono verdure. Cosa avete inventato voi? Sì. Certamente esiste, come dicevo, un problema di conservazione dei prodotti. Molti dei prodotti distribuiti all'interno dei mercati locali sono dei prodotti deperibili. Pensiamo ad esempio ai formaggi freschi, freschissimi, alcune produzioni di qualità come i piccoli frutti, le fragole, hanno bisogno di un trasporto e di un mantenimento soprattutto a temperatura controllata. Il sistema che abbiamo, diciamo così, inventato permette proprio ai produttori locali di mantenere la temperatura dal momento che proponiamo un banco di distribuzione affiancato a dei contenitori isotermici e refrigerati. E infatti io qui vedo un banco di un paio di metri e intorno ci sono due, sono due frigoriferi, uno un po' più basso, uno un po' più alto. I nostri sistemi permettono di mantenere da meno 18 gradi di temperatura fino a ai 10 gradi, quindi permettono di mantenere sia le derrate in legame refrigerato che in legame fresco. Qui noi siamo sotto un ombrellone nero e come mai? L'ombrellone in realtà non è un semplice ombrellone, ma è un ombrellone dotato di un sistema di pannelli fotovoltaici. Questo ci permette in qualche modo di alimentare i nostri frigoriferi tramite un'energia rinnovabile che è quella del sole. Allo stato attuale non è che l'ombrellone alimenti direttamente i frigoriferi, dobbiamo appoggiarci ad una batteria a tampone, quindi l'ombrellone alimenta la batteria tampone, la ricarica, e la batteria tampone alimenta i nostri gruppi frigoriferi. Perché naturalmente voi state pensando al fatto che in un mercato non è che l'accesso all'elettricità sia molto semplice. Così sono autonomi, il venditore certo. È autonomo. Praticamente la nostra area di vendita, la nostra postazione di vendita e di distribuzione è autonoma dall'utilizzo dell'energia elettrica, perché sappiamo che spesso le aree mercatali messe a disposizione dei comuni per questi mercati non sono particolarmente attrezzate da questo punto di vista. Quindi questo è anche un plus importante di questo sistema. Potrebbe essere che per qualche venditore, magari molto piccolo, questo sistema sia eccessivamente costoso. In questo momento noi stiamo cercando di parlare sì con i produttori, ma soprattutto con le associazioni di categoria e con i comuni che organizzano i mercati. Nella nostra ipotesi stiamo cercando di valutare con i comuni e le associazioni di categoria il fatto che loro organizzino delle aree mercatali con questo sistema. In questo modo le metterebbero a disposizione dei produttori, che non dovrebbero più preoccuparsi del banco di vendita, del mantenimento della temperatura, perché avrebbero già un'area attrezzata da questo punto di vista. Noleggiano la refrigerazione. Certo. Questo sistema che lei mi ha appena presentato sta per proporsi al mercato, sì. No? Questo è un prototipo. È un prototipo, è un sistema che sta nascendo. Noi stiamo cercando di capire sia con la collaborazione con le associazioni di categoria che con i produttori quali sono i plus ulteriori che potremmo attraverso i quali potremmo ancora migliorare la nostra proposta. In questo momento è proprio un progetto che sta nascendo e che avrà degli sviluppi futuri. Speriamo che abbia successo. Certo. Insomma, credo che però l'esigenza ci sia. Sì, forse. L'esigenza c'è ed è per questo che il progetto è nato, e da qui in poi vediamo di farlo migliorare. Tutti coloro che sono in ascolto, che hanno dai 18 ai 30 anni e sono interessati alla comunicazione scientifica, nel senso che vorrebbero anche provare a farla questa comunicazione, bene, quello che sto per dire riguarda voi. C'è un concorso che è promosso dal Bioparco di Roma. Su che cosa? Bene, dovete produrre a vostra scelta, per esempio, la recensione di un libro di divulgazione scientifica, naturalmente su temi che riguardano l'evoluzionismo, oppure un articolo come se fosse da pubblicare su una rivista. È un racconto breve di fiction, anche questo sempre sui temi del rivoluzionismo, oppure anche il capitolo di un saggio divulgativo. Naturalmente, per avere informazioni più complete andate al sito del Bioparco, il sito internet che è www.bioparco.it. Sempre alla Fiera della Qualità e Sostenibilità, ebbene, ho incontrato i bottoni di Madreperla. Sono in uno dei tanti stand della campionaria di qualità e ho qui di fianco a me Emanuele Bertoli. Buonasera. Amministratore delegato di Bear Brand, e Bear Brand ha creato un altro marchio che si chiama Superlativa. Dentro il nome Superlativa c'è la perla, potremmo iniziare da lì. Io sono qui, c'è un cubo da stand e ci sono un sacco di bottoni bianchi e scuri di madreperla e ci sono proprio due conchiglie. Allora incominciamo da lì. Certamente. La nostra storia nasce appunto da una risorsa naturale pregiata che è la conchiglia. Il core business è il bottone. Il bottone generava uno scarto dalla conchiglia del 75% e ci siamo impegnati, quando abbiamo vinto il premio Impresa Ambiente nel 2005 con la fondazione, a ridurre questo scarto a zero. Da questo impegno sono nati diversi brevetti. Uno dei primi brevetti a entrare in produzione e di successo è stato il marchio Superlativa. E praticamente abbiamo trasformato la lucentezza, le caratteristiche della perla in una superficie piana, applicabile come valore aggiunto a qualsiasi oggetto di lusso. dalla lavorazione dei bottoni c'è molto scarto della conchiglia, con materiale però che è assolutamente di qualità, no? Non è che è un materiale brutto, è un materiale assolutamente buono, solo che per la forma che dovete fare con i bottoni, insomma, avete questo scarto elevato. E questo riuscite a tradurlo in un materiale utilizzabile in varie applicazioni? In una superficie planare plasmabile, partendo da una superficie rigida che assolutamente non poteva essere plasmata, riducendo in fili lo scarto, dai fili facendo una trama, un texture, che poi può essere, ripeto, come ho detto prima, applicato su qualsiasi tipo di superficie. Ovviamente il minimo comune denominatore di tutti questi prodotti è il lusso, perché partiamo comunque da un prodotto che ha un'origine e una destinazione di lusso. Sono prodotti di qualità alta, qui davanti a me ho, e può sembrare strano, un computer con una cassa, una scocca, che è in madreperla. Quanto scarto avete ogni anno che può essere impiegato in questo tipo di attività? Per limiti naturali, nonostante la nostra risorsa sia certificata come ecosostenibile dalla Fondazione dell'Acquario di Genova con il marchio EcoCrest, non possiamo superare i 12.000 metri quadri, quindi è comunque un prodotto raro e destinato a un'ambientazione molto esclusiva. Parliamo di computer, però vedo anche dei rivestimenti di pareti, pavimentazioni, forse anche altri oggetti d'arredamento. Certamente, per chi è stato al Salone del Mobile la scorsa settimana ha potuto osservare tutta una serie di applicazioni, a partire da vasche idromassaggio, da ingressi di reception, da Vision Air, presso Samuele Mazza, dove è stato ricreato un albergo a 7 stelle, o presso il Fuori Fiera in via Tortona, dove c'erano altri tipi di applicazione, ad esempio su una moto, la stradale più veloce al mondo, ma praticamente stiamo sperimentando in ogni campo, sempre con un occhio di particolare riguardo alla nicchia. Può essere, avete all'orizzonte qualche particolare applicazione alla quale state lavorando? Poi magari, non so, forse questo non può neanche dirmelo, un po' per ragioni di mercato, però c'è qualcosa nel quale pensate potrebbe entrare in modo interessante questo tipo di materiale? Assolutamente sì, soprattutto nel campo dell'automotive, presto ci saranno delle sorprese. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siete raffreddati? Bene, il quiz di oggi è per voi. Ecco la domanda: perché quando abbiamo il raffreddore la nostra voce si fa più bassa, un po' più profonda? Le tre risposte. La prima, perché le corde vocali si gonfiano e quindi sono meno elastiche e perdono le frequenze basse. Ci scriverete gonfiore. Seconda possibilità. Con il raffreddore c'è molto liquido in tutta l'area dei canali nasali e questo liquido fa un effetto tampone, rimandando indietro il suono della voce. Questo contrasto crea un effetto rimbombo che conferisce alla voce una tonalità più bassa. Ci scriverete liquido. Terza possibilità. Il raffreddore altera la respirazione e, senza che noi ci si accorga del fenomeno, tendiamo a parlare con la parte più bassa della laringe, un po' come fanno i ventriloqui, per dirla rapidamente, insomma, parliamo un po' più con la pancia e questo sposta verso il basso la tonalità. Ci scriverete pancia. Dove? Beh, con il solito SMS al 349-238-6666, il libro che si vince, Il pianeta rosso, ultime notizie da Marte, di Francis Rocard, edito da Muzio, e di Marte stiamo per parlare. In collaborazione con IBS.it. Non so se produce lo stesso effetto salutare, ma credo di no. Però una parte dell'azione scatta comunque, anche se si sta fermi. Vi sembra un indovinello? Infatti lo è, ma se adesso ascoltate Chiara Albicocco, vedrete che in pochi secondi vi sarà tutto evidente. Vi siete mai chiesti perché ci piace così tanto seguire le gare sportive in televisione? Le partite di calcio, il Giro d'Italia, la maratona e persino quei programmi televisivi in cui ci sono dei ragazzi che si allenano per diventare dei veri ballerini. Ecco, forse una risposta a tutto questo c'è ed è una risposta da ricercare nel nostro cervello. Infatti un recente studio ha dimostrato che le aree cerebrali deputate al movimento vengono attivate non solo quando i nostri muscoli sono davvero in attività, ma anche quando serviamo altri che lo fanno. La ricerca è stata realizzata dal Laboratorio di Elettrofisiologia Cognitiva dell'Università Milano Bicocca e noi questa sera ospitiamo qui la direttrice. Intanto buonasera Alice Mado Proverbio. Buonasera a voi, salve. Ecco professoressa, lei è già stata nostra ospite un annetto fa per un lavoro che dimostrava quanto le donne fossero empatiche e più emotive dell'uomo. Sì, effettivamente, ecco. È vero. Sì. E ora, come succede spesso, ha ottenuto dei buoni risultati su un altro fronte. L'altra faccia della medaglia. Ok, diciamo. Quindi ci spieghi che tipo di esperimenti avete fatto questa volta. Allora, questa volta noi, lo scopo dello studio sostanzialmente è capire come il cervello riesca a interpretare la presenza di un movimento sulla base di fotografie, di immagini sostanzialmente statiche, no? Quindi quale sia il meccanismo che ci consente di percepire un movimento, un'azione dinamica, diciamo, sulla base di una semplice foto statica. Quindi a tale scopo abbiamo presentato centinaia e centinaia di diapositive a gruppi di studenti universitari, maschi e femmine, e abbiamo registrato la loro attività bioelettrica cerebrale, quindi posizionando centinaia di elettrodi sullo scalpo, poi abbiamo ricostruito quali sono le regioni corticali attive, cioè che producono questo segnale bioelettrico in superficie, per capire appunto come funziona questo meccanismo percettivo del movimento dalla fotografia. E abbiamo scoperto che quando noi percepiamo una immagine che raffigura un gesto molto dinamico come un salto, un tuffo, una persona che corre, quindi dove si vede proprio la tensione muscolare, lo sforzo muscolare, non solo aumenta la frequenza cardiaca e respiratoria nell'osservatore, anche se è perfettamente immobile, ma si attivano addirittura quelle porzioni di cervello, di corteccia, chiamate corteccia motoria e premotoria, che normalmente controllano il nostro stesso movimento. Quindi è una forma di percezione, diciamo, vicaria del movimento altrui che ci consente di interpretare lo scopo delle azioni che vediamo negli altri e anche le intenzioni degli altri. Ecco, come lei ha appena detto, aumenta anche la frequenza respiratoria e il battito cardiaco, cioè c'è una preparazione sia fisiologica che cerebrale. Esattamente, quindi già si sapeva, diciamo, che c'era un'attivazione del sistema nervoso autonomo che quindi aumentava questi parametri alla vista di un altro con specifico che compie uno sforzo, ma non si sapeva nulla ancora sull'attivazione invece del cervello, che è il sistema nervoso centrale. Quindi noi abbiamo scoperto l'attivazione di questi neuroni sensomotori, che sono anche detti neuroni specchio, perché ci consentono appunto di rispecchiarci nelle azioni degli altri, e abbiamo osservato una cosa del tutto inattesa, e che infatti siete stati fortunati da verificare, diciamo, l'obiettivo che vi eravate prefissati. Esattamente. Ma poi un risultato sorprendente. Sorprendente, inatteso. E c'è una differenza tra il genere maschile e femminile, quindi va detto che i nostri soggetti sperimentali erano studenti universitari, pari età, status culturale, diciamo, e nessuno di queste persone pratica uno sport a livello agonistico. Porto. Non ci sono campioni olimpici, no. Ok. Esatto. Per cui è stato molto sorprendente trovare invece che il cervello maschile è particolarmente sensibile alla vista dello sforzo muscolare, quindi l'attivazione del cervello è estremamente diversa se la persona è raffigurata compie un gesto molto, diciamo, faticoso proprio dal punto di vista della tensione muscolare, piuttosto che invece in azione statica. Il cervello femminile invece è molto sensibile alla presenza della figura umana in sé per sé, quindi è attratto e interessato non solo dall'analisi dell'espressione facciale, della postura, ma da tutte quelle componenti che sono interessanti dal punto di vista di capire lo scopo del comportamento, le intenzioni del comportamento e anche eventuali relazioni affettive e sociali tra i diversi attori raffiguranti nella scena. Ecco, e come spiegate queste differenze di genere nelle reazioni proprio cerebrali, quindi biologiche, di questi studenti? Allora, diciamo che appunto, come anche diceva lei poco fa, si sapeva in parte che il cervello femminile, diciamo, è più sensibile a questi aspetti sociali, che potrebbe essere anche tradotto appunto sinteticamente come per certi aspetti la donna è più empatica, no? Uh-huh. E non si sapeva invece molto, diciamo, su questa particolare interesse del cervello maschile per questi aspetti, diciamo, dinamici sportivi. Se invece si parla, insomma, comunemente con le persone, non è molto sorprendente, no? Se noi diciamo che forse i ragazzi così di 20 anni sono un po' più appassionati allo sono sport. Più interessati a scene sportive. Per cui ci sono delle forti differenze di genere nell'interesse proprio alla vista di queste scene, che evidentemente nel cervello maschile possono in qualche modo rispecchiare questo probabile, forse di origine in parte culturale, in parte biologica, dimorfismo sessuale, l'interesse per aspetti motori, diciamo, più spiccati versus aspetti, diciamo, più sociali e relazionali. C'è un altro aspetto interessante del vostro studio in cui ci aiuta a capire qualcosa sui meccanismi imitativi, invece, quei meccanismi che noi mettiamo in atto, sì, quando osserviamo ad esempio un'azione fatta da altri e ci prepariamo e la percepiamo sia fisiologicamente che cerebralmente, abbiamo detto, in un certo senso la impariamo, esatto, la apprendiamo. Esatto. Quindi guardando le azioni e i gesti dei nostri conspecifici siamo in grado non soltanto di interpretare il comportamento, quindi di capire lo scopo del comportamento, capire eventualmente, prepararci anche dal punto di vista motorio fisiologico al eventuale contesto che può essere magari pericoloso, quindi osservando cosa succede siamo in grado di prepararci noi stessi all'azione, ma siamo anche in grado di apprendere proprio nuove abilità motorie o anche tecniche, musicali o sportive, semplicemente guardando gli altri. Altri, è un meccanismo proprio di apprendimento e si pensa sia addirittura alla base dello sviluppo del linguaggio nell'Homo sapiens, no? Che sia derivato da un apprendimento di gesti significativi che inizialmente erano l'utilizzo di utensili, no? Sì. Che venivano tramandato appunto tramite l'osservazione e l'insegnamento, poi dall'utilizzo di utensili si è passato al gesto, al segno, diciamo, poi al gesto simbolico e poi la stessa regione corticale, che è l'area di Broca, la corteccia frontale inferiore sinistra, controlla attualmente, diciamo, nell'Homo sapiens, controlla il linguaggio. Bene, allora io le auguro buon lavoro e, visto i risultati ottimistici, aspettiamo la prossima ricerca. Grazie a voi, salve. Buonasera. A Roma, giovanissimi e robot, la scorsa settimana per la Robot Cup, grande frastuono ma cose interessanti, ve ne parla Barbara Gallavotto. C'era una volta un robot che viveva a Robolandia. Era un tipo disordinato e distratto, ma sapeva riconoscere le situazioni difficili. Un giorno, mentre era nel parco, d'improvviso dietro di lui comparve un bullo che con un pugno gli staccò una vite della gamba. Il robot comprò subito una vite nuova, così poté ricostruire la sua gamba. In seguito venne a sapere che in città quel bullo faceva scherzi poco piacevoli anche ad altri. Così decise di sfidarlo, ma con una prova di intelligenza, cioè a scacchi. Riuscì a sconfiggerlo e il sindaco della città gli disse che era stato fortissimo e lo premiò con il titolo di cacciabulli intelligente. È una delle storie robotiche scritte dai bambini della scuola primaria Don Milani di Latina, una delle presenti al terzo trofeo internazionale Città di Roma di robotica. Un'iniziativa promossa dall'Associazione Mondo Digitale. Il giorno delle gare in Campidoglio, la concentrazione di intelligenza, naturale e artificiale, era decisamente notevole. Robot progettati e realizzati da studenti delle scuole superiori si misuravano in competizioni di tutti i tipi. Robot umanoidi di Italia, Germania e Grecia si sfidavano in ginnastica, corsa e bowling. In un'altra sezione, i robot esploratori cercavano la via d'uscita da un labirinto e robot lottatori di sumo cercavano vicendevolmente di buttarsi fuori da un ring. Il rumore era quasi assordante, e in realtà non per lo sferragliare dei robot, di per loro silenziosissimi, ma per le urla di entusiasmo dei loro costruttori e del pubblico. Ecco, noi avevamo chiesto al direttore generale della Fondazione Mondo Digitale, Mirta Michilli, a che punto è l'insegnamento della robotica in Italia, se ovunque a livello così avanzato, come sembrerebbe, a giudicare da quello che abbiamo visto a Roma. Ecco, non possiamo farvi sentire cosa ci ha risposto, perché era quasi inudibile la sua voce registrata in quella sala, però ve lo posso raccontare. Mirta Michilli ci ha detto che ci sono effettivamente alcuni punti di eccellenza notevoli. Per esempio ci sono scuole romane che sono campioni nella loro disciplina. Abbiamo visto che anche i robot hanno diverse tipi di gare a cui concorrono. Però molto in Italia è ancora lasciato alla buona volontà degli insegnanti. Invece in altri paesi, come in Germania o in Olanda, c'è una sperimentazione più organizzata a livello centrale. Accanto alla sala dove si svolgeva la gara c'era uno spazio espositivo dove si trovavano altri robot costruiti dalle scuole. Beh, questi non saranno stati campioni di atletica, ma non per questo erano meno impressionanti. Come ad esempio la mano, messa a punto dall'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Vallari di Cuneo. È una mano che ha solo tre dita, però una delle tre è un pollice opponibile e quindi la mano meccanica può manipolare gli oggetti, eventualmente sostanze pericolose che è bene che gli esseri umani non tocchino. Sempre dalla medesima scuola viene poi una sorta di ragno, anche lui concepito per andare in esplorazione su terreni troppo pericolosi per creature in carne, ossa e sangue. Che questi robot siano molto divertenti non c'è dubbio. Guardarli all'opera è uno spasso e guardare i loro costruttori fa pensare che metterli a punto sia stato ancora più divertente. Ma alla fine, qual è lo scopo ultimo di una manifestazione come questa? Lo abbiamo chiesto a Tullio De Mauro, presidente dell'associazione Mondo Digitale, e lui ci ha detto, sempre immerso nel rumore di cui abbiamo parlato prima, che iniziative come queste in fondo sono una goccia nel mare, però hanno tre punti di forza. Primo, l'idea che sia possibile studiare in modo attivo, quindi non ripetendo cose dette o lette, ma costruendo con geni nuovi. Il secondo punto è che attraverso esperimenti di questo tipo si capisce l'utilità delle applicazioni in matematica e fisica che altrimenti vengono studiate in modo astratto. E il terzo è che si impara a collaborare, cosa che ci ha detto De Mauro sarebbe utile migliorare in tutto il sistema paese. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. C'è un progetto americano per una missione su Marte, ma potrebbe esservi anche un progetto europeo. Anzi, per la precisione, l'idea a cui si sta lavorando si basa su una collaborazione forte fra Europa e Russia. Ascoltiamo Maurizio Menis. Periodicamente riemerge l'idea di portare l'uomo su Marte, quasi sempre per ragioni che probabilmente hanno a che fare più con la psicologia che con la scienza e la tecnica. Si dice che ci vorranno 20 anni, quasi sempre 20 anni. Ebbene, sull'ultimo numero di Limes è apparso un articolo in controtendenza che guarda alla conquista di Marte come un'impresa che richiederà invece forse 50 anni, ma con una serie significativa di passaggi intermedi. L'articolo si intitola «Eurussia può conquistare Marte» ed è ad opera dell'italianissimo invece Giovanni Fabrizio Bignami, che è stato fino a poco tempo fa presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Buonasera Bignami. Buonasera. Dunque Bignami, noi di Mebius come sempre cerchiamo di capire più che altro il versante tecnico-scientifico della vicenda, tralasciamo quindi quello geopolitico che non avremmo né il tempo né forse le competenze per approfondire. Dunque, anzitutto, io le dico, l'articolo si apre con una specie di orazione funebre dalla quale si apprende che la Stazione Spaziale Internazionale, che è stata appena completata, avrà tutto sommato una vita breve anche per ragioni di inclinazione orbitale. Ecco, ci spiega un po'? Ma certo, con molto piacere. Orazione funebre forse un po' triste, certo, ma certo. È un po' eccessivo. No, beh, però il New York Times ha pubblicato più o meno la stessa cosa, cioè ha detto la NASA conferma che la fine della stazione spaziale sarà nel 2015. Ora, tenuto conto che siamo a completarla forse l'anno prossimo, non sì. Avrà una vita lunga e produttiva, soprattutto rispetto a quello che è costato. Io tra l'altro metto bene in chiaro che quello che è costato è stato utilissimo, certo, per sviluppare tecnologia, industria, in questo senso è stato un ritorno, un fallout splendido, però non ha un gran futuro. Certo. Ma per venire alla inclinazione, sì, che è questo, infatti, piccolo paradosso di origine politica, perché era nata per essere inclinata a 28 gradi e poi è andata a 51 quando sono arrivati i russi per farle, i russi di colpo sono diventati alleati. Parliamo dell'inclinazione sul piano equatoriale. Dell'inclinazione sul piano equatoriale che coincide con la latitudine, certo, della base di lancio. Beh, Jules Verne aveva posizionato il suo cannone per andare sulla Luna proprio vicino a Cape Kennedy, pochi lo sanno perché è la latitudine giusta per andare sulla Luna. E anche per andare su Marte, nel senso che Luna e Marte giacciono vicini al piano dell'eclittica, Marte nel piano dell'eclittica, certo, che è inclinato di 23 gradi rispetto all'equatore. Da invece un'inclinazione più grande, per andare sul piano dell'eclittica bisogna spendere molta energia e tutto diventa più complicato. Cioè è facile lanciare con un'inclinazione più elevata della latitudine, è molto difficile passare ad una inclinazione più bassa. Esatto, si spende inutilmente energia e dovendo andare in un posto lontano e scomodo come Marte, ovviamente l'energia bisogna risparmiare. Quindi la stazione di per sé non è certamente adatta anche per la sua forma, eccetera. Bisogna pensare a qualcos'altro di più moderno che però è alla nostra portata. Ecco, che cosa serve per, come dire, inaugurare una stagione di esplorazioni? Per una stagione vera di esplorazione planetaria ci vuole un qualche cosa in orbita dove si possa assemblare le navi spaziali, un cantiere spaziale che deve essere sull'orbita giusta, appunto, per andare sul piano dell'eclittica. Ora, dicevo nell'articolo, l'Europa ha questa splendida base a Kourou, nella Guyana francese, che è a 5 gradi di latitudine, quindi è perfetta, dalla quale parte l'Ariane 5, che è un vettore molto molto potente, sarebbe largamente sufficiente per portare in orbita i pezzi, e con un piccolo sforzo potrebbe diventare anche pronto al trasporto umano. Che vantaggio c'è ad assemblare in orbita anziché assemblare sulla Terra e poi spedire su? La differenza è che si possono fare tanti viaggi, come si suol dire. Se lei deve portare su delle scale una roba che pesa 10 tonnellate, in un viaggio solo non ce la fa. Se invece fa tanti viaggi, detto in modo molto molto rozzo, no? Per di più c'è anche un altro fattore più importante, cioè per andare su Marte ci vuole un motore a combustibile nucleare. E allora assemblare questo sulla Terra, farlo partire da Terra, può dare problemi di ambiente, di sicurezza, eccetera. Mentre invece se uno lo trasporta a pezzi completamente inerti in orbita e poi lo rende attivo in orbita, sulla superficie della Terra siamo completamente sicuri. Anzi, siamo tutti contenti perché ci siamo liberati di un po' di materiale nucleare che era sulla Terra. Senta, c'è una sorta di complementarietà fra quelle che sono le tecnologie, la disponibilità di vettori tra Russia ed Europa? Senza dubbio. Per esempio, già adesso, sempre da Kourou, parte un razzo di costruzione russa, il mitico Soyuz. Poi c'è un'esperienza molto complementare nel trasporto di equipaggi umani e nel docking, fase molto critica e importante, che è l'aggancio in orbita. Per darle un'idea, l'aggancio alla stazione spaziale del veicolo europeo, che è avvenuto l'anno scorso per la prima volta con grande successo, ha usato un sistema di aggancio che era di origine russa. Quindi abbiamo già pronta una collaborazione basata sulla complementarietà. E per portarsi avanti in questa missione possibile su Marte, già si sta studiando uno degli aspetti centrali di questo viaggio, forse il principale, il tempo, la noia, lo stress, di cui vi racconta Chiara Albicocco. Immaginate di essere rinchiusi in una manciata di metri quadri per 105 giorni con altri 6 individui. Qui ci sono tutti gli elementi per una crisi di claustrofobia, panico, stress e quant'altro. Però adesso dovete immaginare, e qui viene il bello, di essere astronauti. E i metri quadri non sono quelli di un monolocale, ma sono i metri cubi di una navicella spaziale. E infatti sono proprio 6 i volontari, di cui 4 russi, un francese e un tedesco, che dal 31 marzo 2009 vivono rinchiusi dentro la navicella spaziale NEC, parcheggiata in questo momento vicino a Mosca. Ecco, i 6 volontari stanno simulando il viaggio interplanetario che NEC compirà davvero quando l'Agenzia Spaziale Russa e quella europea manderanno in orbita la missione per l'esplorazione di Marte. I 6 partecipanti, selezionati tra oltre 5.000 candidati, non possono avere contatti col mondo esterno, non possono usare internet, i cellulari e altri mezzi di comunicazione. Quindi le condizioni sono davvero estreme. E un team di ricercatori italiani del Centro Extreme di Pisa, che comprende medici, psichiatri, ingegneri, un gruppo veramente eterogeneo, questo è il punto di forza, sono appena tornati da Mosca, dove hanno studiato i meccanismi biologici, psicologici e di stress di questi finti astronauti, costretti in uno spazio davvero angusto. Ecco, tra questi c'era anche lo psichiatra Angelo Gemignani, che è qui con noi questa sera. Buonasera. Ecco, lei era tra questo pool di esperti che è appena tornato da Mosca, che hanno incontrato questi 6 volontari. Ecco, ci spieghi intanto in che condizioni erano? Condizioni veramente estreme, il luogo era veramente angusto? No, assolutamente. Allora, il luogo sì, chiaramente il luogo è abbastanza angusto, cioè nel senso che sono delle navicelle, dei simulatori di navicelle spaziali, quindi come tali non sono certo una suite di un albergo. E ci dà l'idea di quanto possa essere grande in metri cubi? Io non sono mai stato in una navicella spaziale. Beh, guardi, più o meno un sottomarino. Beh, ok, quindi non un luogo proprio confortevole. No, per niente. Ok. Beh, allora, innanzitutto diciamo che gli astronauti non erano, chiaramente non erano stressati, ma erano ipermotivati, veramente ipermotivati e consci dell'importanza di questa simulazione. Quindi quello che abbiamo notato è una profonda motivazione e una determinazione a portare avanti questa simulazione, questo aspetto della ricerca spaziale. Che tipo di osservazioni avete fatto poi una volta giunti lì? Beh, allora, il nostro compito era un compito che guarda esattamente allo stress, ovvero come lo stress legato ad un confinamento può determinare delle alterazioni in particolare del sonno e in particolare di un'onda del sonno, e come tutto questo poi si riverbera sul, insomma, sul benessere sia mentale che fisico. Li avete trovati stressati? Ma diciamo più che stressati, le ripeto, motivati. Poi il concetto di stress è un concetto che non è solamente fenomenico, qui non è un concetto osservazionale, ma deve essere associata a tutta una serie di alterazioni, in particolare ormonali, per considerare una persona stressata. Quindi questo lo vedremo poi alla fine dell'esperimento. Perché l'esperimento continua, cioè loro staranno rinchiusi per 105 giorni, cioè fino a luglio più o meno? Più o meno verso metà luglio. Insomma, in questa prima fase, giusto? Perché poi ce n'è una seconda. C'è una seconda fase che dovrebbe durare 520 giorni e che è la fase in cui viene mimato perfettamente il viaggio di andata, che è intorno ai 240 giorni, il viaggio di ritorno 250, e uno stazionamento su un territorio marziano simulato di circa un mese. Faccio un'osservazione che magari può sembrare un po' superficiale. Dunque, immagino che 6 astronauti lanciati in orbita su Marte abbiano sì una dose di stress veramente enorme, ma anche un concentrato di adrenalina, terrore, paura, eccetera, eccetera. Mentre i 6 volontari che voi avete studiato in realtà hanno sì il fastidio dello spazio ristretto, sicuramente, ma a livello psicologico sanno di essere parcheggiati in realtà in periferia di Mosca. Questo può influire nelle vostre osservazioni, nei vostri studi? Beh, allora, questa mi sembra una domanda estremamente corretta. Diciamo che non abbiamo altre possibilità al momento attuale per simulare il viaggio su Marte, chiaramente. Quindi, da un punto di vista di quello che comunque è lo stress, la deve immaginare che ci sono circa 74 esperimenti internazionali che sono convogliati sulla testa di queste persone, quindi c'è uno stress che va anche al di là della simulazione di per sé. Quindi sono più stressati degli astronauti normali in alcuni casi. Per alcuni aspetti penso proprio di sì. Ripeto, tutto il mondo li guarda. Chiaro che, voglio dire, noi non possiamo e non viene assolutamente mimata quella che è l'assenza di gravità oppure il bombardamento con particelle ionizzanti che tipicamente caratterizza un viaggio interplanetario, e quindi questi sono aspetti che chiaramente non possiamo mimare, anche se ad esempio in quella che sarà in quello che sarà il progetto dei 520 giorni e anche in questo progetto vengono mimate tutta una serie di aspetti, tra cui uno, l'atmosfera interna, l'aria interna è un'aria riciclata così come sarà sulla vera navicella, la comunicazione con la torre di controllo X, no? Che ci sarà ugualmente, terrà in considerazione i tempi che quando gli astronauti simuleranno il viaggio veramente su Marte, quindi saranno su Marte, saranno 20 minuti di andata e 20 minuti per tornare il messaggio sulla Terra. Saranno 40 minuti di ritardo temporale, bene o male, tra una comunicazione, per cui se accade qualcosa all'interno, ma qualcosa anche di natura medica, sempre 40 minuti sono. Durante questa fase di studio avete utilizzato una tecnologia altamente avanzata. Ecco, ci racconti di che cosa si tratta? Beh, diciamo che prima faccio una premessa, perché il nostro gruppo, che è appunto il Centro Extreme, è un gruppo multidisciplinare, per cui non siamo solo medici, ma ci sono ingegneri informatici, fisici e così via, quindi vediamo gli aspetti di acquisizione dei dati a 360 gradi. La tecnologia utilizzata è un elettroencefalografo a 128 canali, ora si immagini che in clinica normalmente si usano elettroencefalografi a 20 canali, quindi che per la prima volta viene utilizzato in una condizione, in una condizione del genere, quindi una condizione di confinamento per simulare un viaggio spaziale, e che ci permette di studiare un'onda molto particolare che alla luce delle conoscenze attuali sembra rappresentare quantomeno l'onda madre di tutte le onde che caratterizzano l'attività cerebrale durante il sonno. In più, tutto questo chiaramente viene condito da un'acquisizione multiparametrica a carico dell'attività cardiaca, respiratoria, pressoria e così via, che ci permette poi durante la condizione di veglia di avere una valutazione obiettiva della risposta allo stress degli astronauti, quindi questo poi ci permetterà di correlare tutta una serie di aspetti anche a livello cerebrale. Più c'è tutta una valutazione ormonale degli ormoni legati allo stress. Tutto questo perché? Il nostro interesse è quello poi di identificare, voglio ancora di identificare quest'onda come una specie di display, ovvero l'alterazione di quest'onda come una specie di display degli effetti dello stress. Quando quest'onda si altera poi il benessere mentale e fisico dell'organismo, e quindi come tale il rischio di incidenti e accidenti aumenta. Se non poi riusciremo in futuro a evitare queste alterazioni, abbiamo trovato la contromisura. Va bene, allora davvero in bocca al lupo. Grazie mille. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Federico Di Trocchio è con noi questa sera. Buonasera Di Trocchio. Buonasera a voi. Storico della scienza, insegna storia della scienza alla Facoltà di Scienze della Comunicazione a Roma, La Sapienza. Di Trocchio, lei è qui perché ha scritto un libro, Il Cammino della Scienza, Successi, Rischi, Prospettive, edito da Mondadori Università. Allora, come noi facciamo spesso, non stiamo certo a pensare di riassumere in pochi minuti tutto quello che c'è dentro, però ci sono due aspetti molto interessanti di questo libro che proviamo a mettere in luce. Il primo è un concetto abbastanza importante, insomma, questo a mio parere, cioè la storia della scienza serve anche per capire cosa produce la scienza, no? È così, questa è la sua tesi. Sì, che sembrerebbe banale da un certo punto di vista, ma se uno guarda qual è stata l'evoluzione di questa disciplina, si rende conto che, ad esempio, i nostri grandi maestri, come è stato uno, Alexander Coiré, uno dei più grandi, avrebbe certo approvato questa cosa. Io mi colloco nella prospettiva che sostanzialmente dice: guardate, la storia è per la civiltà un po' come il ricordo per le persone, serve a progettare il proprio futuro, quindi a capire il presente e a modificarlo verso un futuro auspicabile. Io, per esempio, penso questo, mi dica se sbaglio, ci sono dei passaggi quando si studiano cose di scienza, addirittura quando si studiano, ma anche quando si leggono dei testi divulgativi, ci sono dei passaggi nei quali uno non riesce a capire come mai venga fuori una certa formula, addirittura una certa tesi, una certa affermazione. Se si ricorre alla storia della scienza, si capisce, per esempio, che ne so, che c'era molta incertezza in chi l'ha prodotta, no? C'era tutta una storia difficile, e questo serve a capire il risultato, non solo le vicende umane. Certo, questo, diciamo, gli epistemologi l'hanno capito un pochino prima di noi, quando hanno distinto quello che considerano il contesto della scoperta, distinguendolo dal contesto della giustificazione. È vero. E certo, i grandi storici, cioè la giustificazione è quello che lo scienziato dice a posteriori. Esatto, perché ma è vero. Ma se fa interrogare i suoi diari di laboratorio, vede tutta un'altra storia. Vede delle cose, molto uno scienziato molto meno sicuro di sé, e quindi conflittuale con se stesso e anche i suoi colleghi nei suoi confronti. Perché una scienza presentata come un teorema, come cosa già fatta e definitiva, ti allontana invece che avvicinarti, e quindi l'illustrazione del problema e dell'incertezza è qualcosa che aiuta ad entrare in contatto con la scienza. Volevo venire a quest'altra finestra che appare nel suo libro, e cioè quando lei descrive dei grandi personaggi della storia della scienza, per esempio Galilei, ci mette dentro anche, come dire, molta aneddotica personale, insomma, sui loro umori, sulle loro arrabbiature, sul loro carattere difficile, no? Anche questo è un aspetto molto interessante del libro, che mette in luce delle cose che normalmente non si trovano nei racconti di storia della scienza. Sì, io dunque, tutto questo nasce da una idea che può apparire strana, e cioè che mentre noi giudichiamo tutte queste le idiosincrasie psicologiche personali come rilevanti per capire, per esempio, un'opera artistica, che so, come uno potrebbe capire Leopardi senza conoscere le sue sventure, certo, personali e psicologiche, questo pensiamo che sia irrilevante per invece capire lo scienziato, perché abbiamo sempre in mente quell'idea di uno scienziato che per noi assomiglia ad una macchina di ragionamento, e diciamo, tendiamo a ricondurre quello che lui scrive ad un teorema, mentre invece anche la scienza è racconto, è arte proprio nella sua essenza, e c'è anche molto di personale in questo, e il caso per me più emblematico è proprio quello di Galilei, perché io sono fermamente convinto che la scienza è nata alla fine del Cinquecento, perché alla fine del Cinquecento è nato Galilei, e c'è molto di toscano, sia di personale, sia di geograficamente e culturalmente toscano nella nascita della scienza, e se uno ad esempio confronta Newton con Galilei, si rende conto che Newton ha fatto un grande lavoro di risistemazione del quale forse Galilei non sarebbe stato in grado, che Galilei non sarebbe stato in grado di fare, ma contemporaneamente capisce molto bene che Newton non aveva alle spalle la lucidità, la forza morale, l'aggressività, l'ironia, la lucidità, che aveva un toscanaccio come Galilei, e io azzarderei a dire anche con la sua storia travagliata, con una madre veramente oppressiva. Il fatto che lui abbia, diciamo, riconosciuto, aveva questi tre figli illegittimi, un maschio e due femmine, avuti tutti dalla stessa donna che non ha potuto sposare perché la madre la odiava da morire, perché lui non aveva anche le condizioni. Ecco, pensa tu. E il figlio che era un po' scemetto, diciamo così, cioè non era una cima, lui lo ha riconosciuto e lo ha aiutato in tutti i modi. E le due figlie, una delle quali, quella che gli scrive le famose lettere, era invece una donna di un'intelligenza estrema, le mette in convento, una delle due, di solito ci ricordiamo solo Suor Maria Celeste, quella che l'ha accudito nella sua tarda età con tanto amore, l'altra invece ce la dimentichiamo perché era quella che ha odiato il padre per questo atto di ingiustizia profonda per cui l'ha messo in un convento, senza una forma di riscaldamento, con poche fonti di sostentamento, in cui morivano continuamente suore. Quindi un personaggio insomma molto autocentrato, individualista. Nel libro lei descrive come un atteggiamento un po' presuntuoso in un momento decisivo di confronto con la Chiesa è stato determinante per le sfortune di Galileo, no? Ah, certo. Questa, lei sa, è una questione che ci trasciniamo dietro da tempo. Quello che è abbastanza evidente è che Galileo aveva un progetto molto intelligente, che era un progetto di comunicazione, di utilizzare la forza di penetrazione della Chiesa per veicolare una nuova idea scientifica. Quello che emerge storicamente è che lui è stato sul punto di riuscirci e che se non c'è riuscito non è stato tanto per l'arroganza del potere esterno o non solo per questo, ma anche perché ha sbagliato alcune mosse proprio per un eccesso di fiducia in se stesso e per quel fatto che vari storici hanno sottolineato che si considerava, e evidentemente lui era l'uomo più intelligente della sua epoca, ma questo lo spingeva a trattare gli altri come dei pigmei mentali. Ma lui aveva avuto... Alla fine gli si è ritorto contro, perché se fosse stato più cauto con i gesuiti che l'avevano sempre sostenuto... Esatto, volevo arrivare a questo, cioè i gesuiti accettano la sua idea, però lui li tratta male. Sì. A un certo punto, quindi all'inizio, il primo viaggio a Roma lo accolgono e non potevano contestare, in fondo lo consideravano un po' un allievo perché Clavio usava lo stesso tipo di matematica e lo consideravano una persona loro pari, parte della loro cultura, quindi una persona di grande rilievo. Su quella vicenda delle macchie solari che avrebbe potuto evitare, avrebbe potuto essere più cauto probabilmente ed evitare questo scontro. Quindi se fosse stato un pochino meno sicuro di sé e altrettanto lucido, l'operazione gli sarebbe riuscita. Perché poi nel confronto invece diretto con la Chiesa e con il Papa, quando poteva usufruire dell'appoggio dei gesuiti, questi non gliel'hanno dato. Non gliel'hanno dato, ma poi permane lì un grande mistero, l'unico vero grosso mistero in quel processo è stato il cambiamento di atteggiamento del Papa ex amico di Galileo. Perché si sia urtato così? È verosimile che la cosa più, diciamo, il motivo più importante sia proprio il fatto di aver percepito il Papa in Galilei questa, diciamo, volontà di forzare la mano alla Chiesa. Questo deve essere stato un errore tattico, perché, diciamo, Galilei aveva tutto il diritto come scienziato di sostenere la propria idea, doveva tener conto delle condizioni e queste condizioni imponevano che se lui voleva raggiungere lucidamente lo scopo che si era prefisso di mettersi la Chiesa dalla sua parte, doveva essere un tantinello più cauto. Tutto qui. Ricordo allora il libro di Federico Di Trocchio, Il cammino della scienza, successi, rischi, prospettive, edito da Mondadori. Di Trocchio, grazie e buon lavoro. Grazie a voi e buonasera. C'è un articolo interessante uscito sull'ultimo numero delle Scienze, ogni tanto vi segnaliamo le cose che fanno i colleghi di questa importante rivista, è un articolo che parla dei moderni sistemi di monitoraggio delle eventuali esplosioni atomiche, bombe, di questo si parla, eventi che oggi si potrebbe voler mantenere segreti. Maurizio Melis vi spiega di che si tratta partendo dagli anni in cui le due superpotenze invece ci tenevano a far sapere quali esplosioni effettuavano, magari non proprio con delle conferenze stampa, ma per esempio non ostacolando le rispettive missioni di aerei spia. E sentiamo. Truman, i rossi hanno l'atomica. Così titolava il quotidiano americano Sun dopo che un bombardiere volando a est della penisola della Kamchatka ebbe rilevato nell'atmosfera i residui radioattivi dell'esplosione con cui il 29 agosto 1949 l'URSS era divenuta il secondo paese dotato di bomba atomica. Si può insomma dire che la storia delle ricerche su come individuare gli esperimenti atomici cominciò nello stesso istante in cui iniziava la storia della bomba. Da allora sono stati compiuti oltre 2000 test nucleari, nell'aria, nell'acqua e nel suolo. Una tragica eredità che tuttavia ha fornito agli scienziati anche un'ampia casistica utile a imparare a distinguere la firma delle esplosioni nucleari. Un esperimento in atmosfera produrrebbe un lampo facilmente individuabile dai satelliti e un rombo infrasonico che sarebbe captato a grande distanza dalla rete di microbarometri sparsi un po' ovunque sulla Terra. Infine vi sarebbero tracce radioattive rilevabili facilmente nell'atmosfera. Un'esplosione in acqua invece produce onde acustiche che trovano in un particolare strato del mare, detto SOFAR, posto tra i 600 e i 1200 metri, un conduttore ideale che rende individuabili esplosioni di pochi milionesimi di chilotone. Nel 1963 gli esperimenti all'esterno, in aria, in acqua e nello spazio, furono vietati da un trattato internazionale firmato dai primi tre soci del club nucleare, gli Stati Uniti, l'URSS e la Gran Bretagna. Erano però ancora consentiti gli esperimenti nel sottosuolo, più difficili da individuare. Poi nel 1996 66 paesi firmarono il CTBT, trattato che vieta qualunque tipo di esplosione nucleare sperimentale, comprese quelle sotterranee. Il trattato non è ancora entrato in vigore, tuttavia è stato rispettato da tutti i paesi esclusi India, Pakistan e Corea del Nord, che però non lo avevano firmato. L'entrata in vigore del trattato, insomma, è in bilico. L'amministrazione Bush, pur non avendo effettuato altri test, da allora si è dichiarata a suo tempo scettica. Tra le ragioni che vengono addotte da coloro che si oppongono al trattato c'è la possibilità che altri paesi sperimentino in segreto esplosioni atomiche. Ebbene, in un articolo apparso sulle Scienze di maggio, due scienziati americani, Paul Richards e Won Yong Kim, affermano di fatto che ciò non è invece possibile. Anni di studio hanno infatti dimostrato che i tracciati sismici registrati dalla fitta rete di sismografi sparsa ormai su tutto il pianeta permettono di individuare qualunque test nucleare di potenza significativa. Il 9 ottobre 2006 la Corea del Nord, come molti ricorderanno, effettuò il suo primo esperimento nucleare. Probabilmente riuscito male, l'esplosione generò una potenza inferiore al chilotone. Ciò nonostante i sismografi posti in Corea del Nord permisero di identificare con precisione non solo l'esplosione ma anche la sua posizione geografica. E nonostante fu effettuato questo esperimento a una profondità molto elevata, fu possibile comunque riscontrare tracce radioattive in atmosfera. Gli scienziati hanno messo a punto negli anni metodi di analisi dei tracciati delle esplosioni atomiche sotterranee che permettono di distinguerle da altri fenomeni come terremoti, frane, crolli in miniera o altre esplosioni. Ovviamente è impossibile identificare esplosioni di potenza arbitrariamente bassa, ma gli esperti concordano sul fatto che già esplosioni atomiche di potenza inferiore a un chilotone sono piuttosto inutili da un punto di vista militare, soprattutto per paesi che l'atomica non ce l'hanno e che ambiscono al potere deterrente dell'atomica. Inoltre, questo tipo di esperimenti non fornirebbe informazioni per la costruzione di ordigni più potenti. Nessun paese, insomma, può sperimentare armi atomiche in segreto, se non di bassissima potenza e comunque con un elevato rischio di essere scoperti. È il momento che il trattato entri in vigore e che il pianeta veda la fine della tragica stagione degli esperimenti nucleari. Siamo in conclusione e siamo alla soluzione del quiz questa volta. Perché quando abbiamo il raffreddore la nostra voce si fa più bassa, un po' più profonda? Bene, non c'è liquido nei canali nasali che genera effetti rimbombi, né voce che escono dalla pancia. Il raffreddore è una infiammazione che raggiunge la laringe. Qui ci sono le corde vocali, l'infiammazione le gonfia e quindi, bene, è come avere in una chitarra solo le corde più grosse, che vibrano meno ed emettono un suono più profondo. Vi dico di più, quando l'infiammazione è molto forte si determina un gonfiore tale delle corde vocali che la vibrazione è praticamente nulla ed è qui appunto che perdiamo la voce. Resta disponibile solo una frequenza attivata dal respiro che faticosamente cava fuori una specie di parlata sibilante che però andrebbe assolutamente evitata perché stressa maggiormente le corde già gonfie. Con questa soluzione si conclude la nostra puntata. Buona serata a tutti e tutte. Ci sentiamo la prossima settimana.